Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Gioacchin, 2007. Cuore, di Edmondo De Amicis. Gennaio. Mercoledì 4. Il maestro supplente. Aveva ragione mio padre. Il maestro era di malumore perché non stava bene. E da 3 giorni, infatti, viene in sua vece il supplente, quello piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. Una brutta cosa accadde questa mattina. Già il primo e il secondo giorno avevano fatto il chiasso nella scuola, perché il supplente ha una gran pazienza e non fa che dire state zitti, vi prego. Ma questa mattina si passò la misura. Si faceva un ronzio che non si sentivan più le sue parole ed egli ammoniva, pregava, ma era fiato sprecato. 2 volte il direttore s'affacciò all'uscio e guardò. Ma via lui il sussurro cresceva, come in un mercato. Avevano un bel voltarsi, Garrone e De Rossi, a far dei cenni ai compagni che stessero buoni, che era una vergogna. Nessuno ci badava. Non c'era che Stardi che stesse quieto, coi gomiti sul banco e i pugni alle tempie, pensando forse alla sua famosa libreria, e Garoffi, quello dal naso a uncino e dei francobolli, che era tutto occupato a far l'elenco dei sottoscrittori a 2 centesimi per la lotteria d'un calamaio da tasca. Gli altri ci calavano e ridevano, suonavano con le punte di pennini piantate nei banchi e si tiravano dei bastoncini di carta con gli elastici delle calze. Il supplente afferrava per un braccio ora l'uno ora l'altro e li scrollava e ne mise uno contro il muro. Tempo perso. Non sapeva più a che santo votarsi. Pregava. «Ma perché fate in questo modo? Volete farmi rimproverare per forza?» Poi batteva il pugno sul tavolino e gridava con voce di rabbia e di pianto «Silenzio! Silenzio! Silenzio!» Faceva pena a sentirlo, ma il rumore cresceva sempre. Franti gli tirò una frecciuola di carta. Alcuni facevano la voce del gatto, altri si scappellottavano. Era una sottosopra da non descriversi. Quando improvvisamente entrò il bidello e disse «Signor maestro, il direttore la chiama!» Il maestro s'alzò e uscì in fretta, facendo un atto disperato. Allora il baccano ricominciò più forte. Ma tutto a un tratto Garrone saltò su col viso stravolto e coi pugni stretti e gridò con la voce strozzata dall'ira. «Finitela! Siete bestie! Abusate perché è buono! Se vi pestasse le ossa, sareste mogi come cani! Siete un branco di vigliacchi! Il primo che gli fa ancora uno scherzo, lo aspetto fuori e gli rompo i denti, lo giuro, anche sotto gli occhi di suo padre!» Tutti tacquero. Ah, com'è bello a vedere Garrone con gli occhi che mandavan fiamme. Un leoncello furioso, pareva. Guardò uno per uno i più arditi e tutti chinaron la testa. Quando il supplente rientrò con gli occhi rossi, non si sentiva più un alito. Egli rimase stupito. Ma poi, vedendo Garrone ancora tutto acceso e fremente, capì e gli disse con l'accento di un grande affetto, come avrebbe detto a un fratello: «Ti ringrazio, Garrone». La libreria di Stardi. Sono andato da Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola, e ho provato invidia davvero a vedere la sua libreria. Non è mica ricco, non può comprar molti libri, ma egli conserva con gran cura i suoi libri di scuola e quelli che gli regalano i parenti, e tutti i soldi che gli danno li mette da parte e li spende dal libraio. In questo modo si è messo assieme una piccola biblioteca, e quando suo padre si è accorto che aveva quella passione, gli ha comperato un bello scaffale di noce con la tendina verde e gli ha fatto legare quasi tutti i volumi coi colori che gli piacevano a lui. Così ora egli tira un cordoncino, la tenda verde scorre via e si vedono tre file di libri d'ogni colore, tutti in ordine, lucidi, coi titoli dorati sulle coste, dei libri di racconti, di viaggi e di poesie, e anche illustrati. Ed egli sa combinar bene i colori, mette i volumi bianchi accanto ai rossi, i gialli accanto ai neri, gli azzurri accanto ai bianchi, in maniera che si vedan da lontano e facciano bella figura. E si diverte poi a variare le combinazioni. S'è fatto il suo catalogo. È come un bibliotecario. Sempre sta attorno ai suoi libri, a spolverarli, a sfogliarli, a esaminare le legature. Bisogna vedere con che cura li apre, con quelle sue mani corte e grosse, soffiando tra le pagine. Paiono ancora tutti nuovi. Io che ho sciupiato tutti i miei. Per lui ogni nuovo libro che compra è una festa a lisciarlo, a metterlo al posto e a riprenderlo per guardarlo per tutti i versi e covarselo come un tesoro. Non m'ha fatto vedere altro in un'ora. Aveva male agli occhi dal gran leggere. A un certo momento passò nella stanza suo padre, che è grosso e tozzo come lui, con un testone come il suo, e gli diede due o tre manate sulla nuca, dicendomi con quel vocione: «Che ne dici, di questa testaccia di bronzo? È una testaccia che riuscirà a qualcosa, te lo assicuro io!» E Stardi socchiudeva gli occhi sotto quelle ruvide carezze, come un grosso cane da caccia. Io non so, non osavo scherzare con lui. Non mi pareva vero che avesse solamente un anno più di me. E quando mi disse «Arrivederci» sull'uscio, con quella faccia che par sempre imbronciata, poco mancò che gli rispondessi «La riverisco», come a un uomo. Io lo dissi poi a mio padre, a casa. «Non capisco. Stardi non ha ingegno. Non ha belle maniere. È una figura quasi buffa. Eppure mi mette soggezione». E mio padre rispose «È perché ha carattere». Ed io aggiunsi «In un'ora che son stato con lui, non ha pronunciato 50 parole, non m'ha mostrato un giocattolo, non ha riso una volta, eppure ci son stato volentieri». E mio padre rispose «È perché lo stimi». Il figliuolo del fabbro ferraio. «Sì, ma anche per Cossi io stimo, ed è troppo poco il dire che lo stimo. Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello piccolo, smorto, che ha gli occhi buoni e tristi e un'aria di spaventato, così timido che dice a tutti «scusami», sempre malaticcio, e che pure studia tanto. Suo padre rientra in casa ubriaco d'acquavite e lo batte senza un perché al mondo, gli butta in aria i libri e i quaderni con un rovescione, ed egli viene a scuola coi lividi sul viso, qualche volta col viso tutto gonfio e gli occhi infiammati dal gran piangere. Ma mai, mai che gli si possa far dire che suo padre l'ha battuto. «È tuo padre che t'ha battuto», gli dicono i compagni. Ed egli grida subito «Non è vero, non è vero!» per non far disonore a suo padre. «Questo foglio non l'hai bruciato tu», gli disse il maestro, mostrandogli il lavoro mezzo bruciato. «Sì», risponde lui con voce tremante, «son io che l'ho lasciato cadere sul fuoco». Eppure noi lo sappiamo bene che è suo padre ubriaco che ha rovesciato tavolo e lume con un pedata mentre egli faceva il suo lavoro. Egli sta in una soffitta della nostra casa dall'altra scala. La portinaia racconta tutto a mia madre. Mia sorella Silvia lo sentì gridare dal terrazzo un giorno che suo padre gli fece far la scala a capitomboli perché gli aveva chiesto dei soldi per comprare la grammatica. Suo padre beve, non lavora e la famiglia patisce la fame. Quante volte il povero Precossi viene a scuola digiuno e rosicchia di nascosto un panino che gli dà Garrone o una mela che gli porta la maestrina dalla Penna Rossa, che fu sua maestra di prima inferiore. Ma mai che egli dica «Ho fame, mio padre non mi dà da mangiare. Suo padre vien qualche volta a prenderlo, quando passa per caso davanti alla scuola, pallido, malfermo sulle gambe, con la faccia torva, coi capelli sugli occhi e il berretto per traverso. E il povero ragazzo trema tutto quando lo vede nella strada. Ma tanto gli corre incontro sorridendo, e suo padre par che non lo veda e pensi ad altro. Povero Precossi. Egli si riduce i quaderni sdracciati. Si fa imprestare i libri per studiare la lezione. Si riattacca i brandelli delle camicia con degli spilli. Ed è una pietà a vederlo far la ginnastica con quegli scarponi che ci guazza dentro, con quei calzoni che strascicano e quel giacchettone troppo lungo, con le maniche rimboccate sino ai gomiti. E studia, si impegna. Sarebbe uno dei primi se potesse lavorare a casa tranquillo. Questa mattina è venuto alla scuola col segno d'un'unghiata sopra una gota e tutti a dirgli: «È tuo padre! Non lo puoi negare stavolta! È tuo padre che t'ha fatto quello! Dillo al direttore, che lo faccia chiamare in questura!» Ma egli s'alzò tutto rosso, con la voce che tremava dallo sdegno. «Non è vero! Non è vero! Mio padre non mi batte mai!» Ma poi, durante la lezione, gli cascavano le lacrime sul banco e quando qualcuno lo guardava, si sforzava di sorridere per non parere. Povero Precossi! Domani verranno a casa mia De Rossi, Coretti e Nelli. Lo voglio dire anche a lui che venga e voglio fargli far merenda con me, regalargli dei libri, metter sopra la casa per divertirlo e empirgli le tasche di frutta per vederlo una volta contento, povero Precossi, che è tanto buono e ha tanto coraggio. Giovedì 12. Una bella visita. Ecco uno dei giovedì più belli dell'anno per me. Alle 2 in punto vennero a casa De Rossi e Coretti, con Nelli, il gobbino. Precossi, suo padre non lo lasciò venire. De Rossi e Coretti ridevano ancora che avevano incontrato per strada Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, quello del braccio morto e dei capelli rossi, che portava a vendere un grossissimo cavolo e col soldo del cavolo doveva poi andare a comprare una penna. Ed era tutto contento perché suo padre ha scritto dall'America che lo aspettassero di giorno in giorno. Oh, le belle 2 ore che abbiamo passate insieme! Sono i due più allegri della classe, De Rossi e Coretti. Mio padre ne rimase innamorato. Coretti aveva la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pel di gatto. È un diavolo che sempre vorrebbe fare, rimestare, sfaccendare. Aveva già portato sulle spalle una mezza carrata di legna la mattina presto. Eppure galoppò per tutta la casa, osservando tutto e parlando sempre, arzillo e lesto come uno scoiattolo, e passando in cucina domandò alla cuoca quanto ci fanno pagare la legna, il miriagramma, che suo padre le dà a 45 centesimi. Sempre parla di suo padre, di quando fu soldato nel 49° reggimento, della battaglia di Custoza, dove si trovò nel quadrato del principe Umberto. Ed è così gentile di maniere. Non importa che sia nato e cresciuto fra la legna. Egli l'ha nel sangue, nel cuore la gentilezza, come dice mio padre. E De Rossi ci divertì molto. Egli sa la geografia come un maestro. Chiudeva gli occhi e diceva: «Ecco, io vedo tutta l'Italia, gli Appennini che s'allungano sino al Mar Ionio, i fiumi che corrono di qua e di là, le città bianche, i golfi, i segni azzurri, le isole verdi». E diceva i nomi giusti, per ordine, rapidissimamente, come se leggesse sulla carta. E a vederlo così, con quella testa alta, tutta riccioli biondi, con gli occhi chiusi, tutto vestito di turchino coi bottoni dorati, dritto e bello come una statua, tutti stavano in ammirazione. In un'ora egli aveva imparato a mente quasi 3 pagine che deve recitare dopo domani, per l'anniversario del funerale del re Vittorio. E anche Nelly lo guardava con meraviglia e con affetto, stropicciando la falda del suo grembialone di tela nero e sorridendo con quegli occhi chiari e melanconici. Mi fece un grande piacere quella visita. Mi lasciò qualche cosa, come delle scintille, nella mente e nel cuore. E anche mi piacque, quando se ne andarono, vedere il povero Nelly in mezzo agli altri due, grandi e forti, che lo portavano a casa a braccetto, facendolo ridere come non l'ho visto ridere mai. Rientrando nella stanza da mangiare, m'accorsi che non c'era più il quadro che rappresentava Rigoletto, il buffone gobbo. L'aveva levato mio padre, perché Nelly non lo vedesse. Martedì 17. I funerali di Vittorio Emanuele. Quest'oggi alle 2, appena entrato nella scuola, il maestro chiamò De Rossi, il quale s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia a noi, e cominciò a dire col suo accento vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso. 4 anni sono, in questo giorno, a quest'ora, giungeva davanti al Pantheon, a Roma, il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, morto dopo 29 anni di regno, durante i quali la grande patria Italia, spezzata in 7 stati e oppressa da stranieri e da tiranni, era risorta in uno stato solo, indipendente e libero. Dopo un regno di 29 anni, che egli aveva fatto illustre e benefico col valore, con la lealtà, con l'ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trionfi, con la costanza nelle sventure. Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver percorso Roma sotto una pioggia di fiori, tra il silenzio di un'immensa moltitudine addolorata, accorsa da ogni parte d'Italia, preceduto da una legione di generali e da una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da una selva di bandiere, dagli invitati di 300 città, da tutto ciò che rappresenta la potenza e la gloria di un popolo, giungeva dinanzi al Tempio Augusto, dove l'aspettava la tomba. In questo momento 12 corazzieri levavano il feretro del carro. In questo momento l'Italia dava l'ultimo addio al suo re morto, al suo vecchio re, che l'aveva tanto amata, l'ultimo addio al suo soldato, al padre suo, ai 29 anni più fortunati e più benedetti della sua storia. Fu un momento grande e solenne. Lo sguardo, l'anima di tutti trepidava tra il feretro e le bandiere, abbrunate degli 80 reggimenti dell'esercito d'Italia, portate da 80 ufficiali, schierati sul suo passaggio. Poiché l'Italia era là, in quegli 80 segnacoli, che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il feretro, portato dai corazzieri, passò, e allora si chinarono tutte insieme, in atto di saluto, le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere lacide di Goito, di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestro, di San Martino, di Castelfidardo. 80 veli neri caddero, 100 medaglie urtarono contro la cassa, e quello strepito sonoro e confuso che rimescolò il sangue di tutti fu come il suono di 1000 voci umane che dicessero tutte insieme: addio buon re, prode re, reale re, tu vivrai nel cuore del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l'Italia. Dopodiché le bandiere si rialzarono altamente verso il cielo e re Vittorio entrò nella gloria immortale della tomba. Sabato 21. Franti cacciato dalla scuola. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re, e Franti rise. Io detesto costui. È malvagio.

disposti in forma di semicerchio, rispondevano vigorosamente. Ai 60 soldati italiani comandavano due ufficiali subalterni e un capitano, un vecchio alto, secco e austero, coi capelli e i baffi bianchi. E c'era con essi un tamburino sardo, un ragazzo di poco più di 14 anni, che ne dimostrava 12, scarsi, piccolo, di viso bruno olivastro, con due occhietti neri e profondi che scintillavano. Il capitano, da una stanza del primo piano, dirigeva la difesa, lanciando dei comandi che parean colpi di pistola, e non si vedeva sulla sua faccia ferrea nessun segno di commozione. Il tamburino, un po' pallido, ma saldo sulle gambe, salito sopra un tavolino, allungava il collo, trattenendosi alla parete, per guardar fuori dalle finestre, e vedeva attraverso il fumo dei campi le divise bianche degli austriaci che venivano avanti lentamente. La casa era posta sulla sommità d'una china ripida e non aveva dalla parte della china che un solo finestrino alto, rispondente in una stanza a tetto. Perciò gli austriaci non minacciavano la casa da quella parte e la china era sgombra. Il fuoco non batteva che la facciata e i due fianchi. Ma era un fuoco d'inferno, una grandine di palle di piombo che di fuori screpolava i muri e sbriciolava i tegoli, e dentro fracassava soffitti, mobili, imposte, battenti, buttando per aria schegge di legno e nuvoli di calcinacci e frantumi di stoviglie e di vetri, sibilando, rimbalzando, schiattando ogni cosa con un fragore da fendere il cranio. Di tratto in tratto, uno dei soldati che tiravano dalle finestre stramazzava indietro sul pavimento ed era trascinato in disparte. Alcuni barcollavano, di stanza in stanza, premendosi le mani sopra le ferite. Nella cucina c'era già un morto, con la fronte spaccata. Il semicerchio dei nemici si stringeva. A un certo punto fu visto il capitano, fino allora impassibile, fare un segno di inquietudine e uscire a grandi passi dalla stanza, seguito da un sergente. Dopo 3 minuti ritornò di corsa il sergente e chiamò il tamburino, facendogli cenno che lo seguisse. Il ragazzo lo seguì correndo su per la scala di legno ed entrò con lui in una soffitta nuda, dove vide il capitano che scriveva con una matita sopra un foglio, appoggiandosi al finestrino, e ai suoi piedi, sul pavimento, c'era una corda da pozzo. Il capitano ripiegò il foglio e disse bruscamente, fissando negli occhi al ragazzo le sue pupille grigie e fredde, davanti a cui tutti i soldati tremavano, «Tamburino!». Il tamburino si mise la mano sulla visiera. Il capitano disse, «Tu hai del fegato!». Gli occhi del ragazzo lampeggiarono. «Sì, signor capitano», rispose. «Guarda laggiù», disse il capitano, spingendolo al finestrino. «Nel piano, vicino alle case di Villafranca, dove c'è un luccichio di baglionette. Là ci sono i nostri, immobili. Tu prendi questo biglietto, t'afferri alla corda, scendi dal finestrino, divori la china, pigli pei campi, arrivi fra i nostri e dai il biglietto al primo ufficiale che vedi. Butta via il cinturino e lo zaino». Il tamburino si levò il cinturino e lo zaino e si mise il biglietto nella tasca del petto. Il sergente gettò fuori la corda e ne tenne afferrato con due mani l'uno dei capi. Il capitano aiutò il ragazzo a passare per il finestrino, con la schiena rivolta verso la campagna. «Bada», gli disse, «la salvezza del distaccamento è nel tuo coraggio e nelle tue gambe». «Si fidi di me, signor capitano», rispose il tamburino, spenzolandosi fuori. «Curvati nella discesa», disse ancora il capitano, afferrando la corda insieme al sergente. «Non dubiti, Dio t'aiuti». In pochi momenti il tamburino fu a terra. Il sergente tirò su la corda e disparve. Il capitano s'affacciò impetuosamente al finestrino e vide il ragazzo che volava giù per la china. Sperava già che fosse riuscito a sfuggire inosservato, quando 5 o 6 piccoli nuvoli di polvere che si sollevarono da terra davanti e dietro al ragazzo l'avvertirono che era stato visto dagli austriaci. i quali gli tiravano addosso dalla sommità dell'altura. Quei piccoli nuvoli erano terra battuta in aria dalle palle. Ma il tamburino continuava a correre, a rompicollo. A un tratto stramazzò. «Ucciso!» ruggì il capitano, addentandosi il pugno. Ma non aveva anche detto la parola che vide il tamburino rialzarsi. «Ah, una caduta soltanto!» disse tra sé e respirò. Il tamburino, infatti, riprese a correre di tutta forza, ma zoppicava. «Un torcipiede!» pensò il capitano. Qualche nuvoletta di polvere si lavò ancora qua e là intorno al ragazzo, ma sempre più lontano. Egli era in salvo. Il capitano mise un'esclamazione di trionfo, ma seguitò ad accompagnarlo con gli occhi, trepidando, perché era un affar di minuti. Se non arrivava laggiù il più presto possibile col biglietto che chiedeva immediato soccorso, o tutti i suoi soldati cadevano uccisi, o egli doveva arrendersi e darsi prigioniero con loro. Il ragazzo correva rapido un tratto, poi rallentava il passo zoppicando, poi ripigliava la corsa, ma sempre più affaticato, e ogni tanto incespicava, si soffermava. «Lo ha forse colto una palla di striscio», pensò il capitano, e notava tutti i suoi movimenti, fremendo, e lo eccitava, gli parlava, come se quegli avesse potuto sentirlo. Misurava senza posa, con l'occhio ardente, lo spazio interposto fra il ragazzo fuggente e quel luccichio d'armi che vedeva laggiù nella pianura, in mezzo ai campi di frumento dorati dal sole. E intanto sentiva i sibili e il fracasso delle palle nelle stanze di sotto, le grida imperiose e rabbiose degli ufficiali e dei sergenti, i lamenti acuti dei feriti, il rovinio dei mobili e dei calcinacci. «Su, coraggio!» gridava, seguitando con lo sguardo il tamburino lontano. «Avanti, corri!» «Si ferma, maledetto!» «Ah, riprendo la corsa!» Un ufficiale venne a dirgli, ansando, che i nemici, senza interrompere il fuoco, sventolavano un panno bianco per intimare la resa. «Non si risponda!» egli gridò, senza staccar lo sguardo dal ragazzo, che era già nel piano, ma che non correva più, e parea che si trascinasse stentamente. «Ma va, ma corri!» diceva il capitano, stringendo i denti e i pugni. «Ammazzati! Muori, scellerato! Ma va!» Poi gettò un'orribile imprecazione. «Ah, l'infame poltrone! S'è seduto!» Il ragazzo, infatti, in cui fino allora egli aveva visto sporgere il capo al di sopra d'un campo di frumento, era scomparso, come se fosse caduto. Ma dopo un momento la sua testa venne fuori da capo. Infine si perdette dietro le siepi, e il capitano non lo vide più. Allora discese impetuosamente. Le palle tempestavano. Le stanze erano ingombre di feriti, alcuni dei quali giravano su se stessi come ubriachi, aggrappandosi ai mobili. Le pareti e il pavimento erano schizzati di sangue. Dei cadaveri giacevano attraverso le porte. Il luogotenente aveva il braccio destro spezzato da una palla. Il fumo e il polverio avvolgevano ogni cosa. «Coraggio!» gridò il capitano. «Fermi al posto! Arrivano soccorsi! Ancora un po' di coraggio!» Gli austriaci s'erano avvicinati ancora. Si vedevano giù tra il fumo i loro visi stravolti. Si sentivano tra lo stepitio delle fucilate le loro grida selvagge, che insultavano, intimavano la resa, minacciavano l'eccidio. Qualche soldato, impaurito, si ritraeva dalle finestre. I sergenti lo ricacciavano avanti. Ma il fuoco della difesa infiacchiva. Lo scoraggiamento appariva su tutti i visi. Non era più possibile protrarre la resistenza. A un dato momento i colpi degli austriaci rallentarono e una voce tonante gridò prima in tedesco, poi in italiano. «Arrendetevi!» «No!» urlò il capitano da una finestra. E il fuoco ricominciò più fitto e più rabbioso dalle due parti. Altri soldati caddero. Già più d'una finestra era senza difensori. Il momento fatale era imminente. Il capitano gridava con voce smozzicata tra i denti. «Non vengono! Non vengono!» E correva intorno furioso, torcendo la sciabola con la mano convulsa, risoluto a morire. quando un sergente, scendendo dalla soffitta, gettò un grido acutissimo. «Arrivano! Arrivano!» ripeté con un grido di gioia il capitano. A quel grido tutti, sani, feriti, sergenti, ufficiali, si lanciarono alle finestre e la resistenza inferocì d'un'altra volta. Di lì a pochi momenti si notò come un'incertezza e un principio di disordine fra i nemici. Subito, in furia, il capitano radunò un drappello nella stanza a terreno per far impeto fuori con le baionette innestate. Poi rivolò di sopra. Era appena arrivato che sentirono uno scalpitio precipitoso, accompagnato da un urrà formidabile, e videro dalle finestre venire innanzi tra il fumo i cappelli a due punte dei carabinieri italiani, uno squadrone lanciato ventre a terra e un balenio fulmineo di lame mulinate per aria, calate sui capi, sulle spalle, sui dorsi. Allora il drappello irruppe a baionette basse fuori dalla porta. I nemici vacillarono, si scompigliarono, diedero di volta. Il terreno rimase sgombro, la casa fu libera. E poco dopo due battaglioni di fanteria italiana e due cannoni occupavano l'altura. Il capitano, coi soldati che gli rimanevano, si ricongiunse al suo reggimento, combatté ancora e fu leggermente ferito alla mano sinistra da una palla rimbalzante nell'ultimo assalto alla baionetta. La giornata finì con la vittoria dei nostri. Ma il giorno dopo, essendosi ricominciato a combattere, gli italiani furono oppressi, malgrado la valorosa resistenza, dal numero soverchiante degli austriaci, e la mattina del 26 dovette prendere tristemente la via della ritirata verso il Mincio. Il capitano, benché ferito, fece il cammino a piedi coi suoi soldati, stanchi e silenziosi, e arrivato sul cader del giorno a Goito, sul Mincio, cercò subito il suo luogotenente, che era stato raccolto col braccio spezzato dalla nostra ambulanza, e doveva essere giunto là prima di lui. Gli fu indicata una chiesa, dove era stato installato affrettatamente un ospedale da campo. Egli v'andò. La chiesa era piena di feriti, adagiati su due file di letti e di materassi distesi sul pavimento. Due medici e vari inservienti andavano e venivano affannati e s'udivano delle grida soffocate e dei gemiti. Appena entrato, il capitano si fermò e girò lo sguardo all'intorno in cerca del suo ufficiale. In quel punto si sentì chiamare da una voce fioca vicinissima: «Signor capitano!» Si voltò. Era il tamburino. Era disteso sopra un letto a cavalletti, coperto fino al petto da una rozza tenda da finestra, a quadretti rossi e bianchi, con le braccia fuori, pallido e smagrito, ma sempre coi suoi occhi scintillanti, come due gemme nere. «Sei qui, tu?» gli domandò il capitano stupito, ma brusco. «Bravo, hai fatto il tuo dovere!» «Ho fatto il mio possibile», gli rispose il tamburino. «Sei stato ferito», disse il capitano, cercando con gli occhi il suo ufficiale nei letti vicini. «Che vuole?» disse il ragazzo, a cui dava coraggio a parlare la compiacenza altiera d'essere per la prima volta ferito, senza di che non avrebbe osato aprir bocca in faccia a quel capitano. «Ho avuto un bel correre gobbo, m'han visto subito. Arrivavo 20 minuti prima, se non mi coglievano. Per fortuna che ho trovato subito un capitano di stato maggiore da consegnargli il biglietto. Ma è stato un brutto discendere dopo quella carezza. Morivo dalla sete, temevo di non arrivare più. Piangevo dalla rabbia a pensare che ad ogni minuto di ritardo se ne andava uno dall'altro mondo, lassù. Basta, ho fatto quello che ho potuto, son contento. Ma guardi lei, con licenza, signor capitano, che perde sangue». Infatti, dalla palma mal fasciata del capitano colava giù per le dita qualche goccia di sangue. «Vuol che le dia una stretta io alla fascia, signor capitano? Porga un momento». Il capitano porse la mano sinistra e allungò la destra per aiutare il ragazzo a sciogliere il nodo e a rifarlo. Ma il ragazzo, sollevatosi appena dal cuscino, impallidì e dovette riappoggiare la testa. «Basta, basta», disse il capitano, guardandolo e ritirando la mano fasciata che quegli voleva ritenere. «Bada ai fatti tuoi, invece di pensare agli altri, che le cose leggere, a trascurarle, possono farsi gravi!» Il tamburino scosse il capo. «Ma tu», gli disse il capitano, guardandolo attentamente, «devi aver perso molto sangue, tu, per essere debole a quel punto!» «Perso molto sangue?» rispose il ragazzo con un sorriso. «Altro che sangue, guardi!» E tirò via d'un colpo la coperta. Il capitano diede un passo indietro, inorridito. Il ragazzo non aveva più che una gamba. La gamba sinistra gli era stata amputata al di sopra del ginocchio. Il troncone era fasciato di panni insanguinati. In quel momento passò un medico militare, piccolo e grasso, in maniche di camicia. «Ah, signor capitano!» disse rapidamente, accennandogli il tamburino. «Ecco un caso disgraziato. Una gamba che si sarebbe salvata con niente se egli non l'avesse forzata in quella pazza maniera. Un'infiammazione maledetta. Bisognò tagliarli per lì. Oh, ma un bravo ragazzo, gliel'assicuro io. Non ha dato una lacrima, non un grido. Ero superbo che fosse un ragazzo italiano. Mentre l'operavo, in parola d'onore. Quello è di buona razza, per Dio!» E se ne andò di corsa. Il capitano corrugò le grandi sopracciglia bianche e guardò fisso il tamburino, ristendendogli addosso la coperta. Poi, lentamente, quasi non avvenendosene e fissandolo sempre, alzò la mano al capo e si levò il cheppì. «Signor capitano!» esclamò il ragazzo meravigliato. «Cosa fa, signor capitano? Per me?» E allora quel rozzo soldato, che non aveva mai detto una parola mite ad un suo inferiore, rispose con una voce incredibilmente affettuosa e dolce: «Io non sono che un capitano. Tu sei un eroe!» Poi si gettò con le braccia aperte sul tamburino e lo baciò tre volte sul cuore. Martedì 24. Lettera. L'amor di patria. Poiché il racconto del tamburino t'ha scosso il cuore, ti doveva essere facile questa mattina far bene il componimento d'esame. Perché amare l'Italia? Perché amo l'Italia? Non ti si son presentate subito 100 risposte? Io amo l'Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché la città dove sono nato, la lingua che parlo, i libri che m'educano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni e il grande popolo in mezzo a cui vivo e la bella natura che mi circonda e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro è italiano. Oh, tu non puoi ancora sentirlo intero questo affetto. Lo sentirai quando sarai un uomo, quando, ritornando da un viaggio lungo, dopo una lunga assenza, e affacciandoti una mattina al parapetto del bastimento, vedrai all'orizzonte le grandi montagne azzurre del tuo paese. Lo sentirai allora, nell'onda impetuosa di tenerezza che t'empirà gli occhi di lacrime e ti strapperà un grido dal cuore. Lo sentirai in qualche grande città lontana, nell'impulso dell'anima che ti spingerà fra la folla sconosciuta verso un operaio sconosciuto, dal quale avrai inteso, passandogli accanto, una parola della tua lingua. Lo sentirai nello sdegno doloroso e superbo che ti getterà il sangue alla fronte quando udirai ingiuriare il tuo paese dalla bocca di uno straniero. Lo sentirai più violento e più altero il giorno in cui la minaccia d'un popolo nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua patria e vedrai fremere armi da ogni parte, i giovani accorrere a legioni, i padri abbracciare i figli dicendogli coraggio e le madri dire addio ai giovinetti gridando vincete. Lo sentirai come una gioia divina se avrai la fortuna di veder rientrare nella tua città i reggimenti diradati, stanchi, cenciosi, terribili, con lo splendore della vittoria negli occhi e le bandiere lacerate dalle palle, seguiti da un convoglio sterminato di valorosi che leveranno in alto le teste bendate e i moncherini, in mezzo a una folla pazza, che li coprirà di fiori, di benedizioni e di baci. Tu comprenderai allora l'amor di patria, sentirai la patria allora, Enrico. Ella è una così grande e sacra cosa che se un giorno io vedessi te tornar salvo da una battaglia combattuta per essa, salvo te che sei la carne e l'anima mia, e sapessi che hai conservato la vita perché ti sei nascosto alla morte, io, tuo padre, che t'accolgo con un grido di gioia quando torni dalla scuola, io t'accoglierei con un singhiozzo d'angoscia e non potrei amarti mai più e morirei con quel pugnale nel cuore. Firmato tuo padre. Mercoledì 25. Invidia. Anche il componimento sulla patria, chi l'ha fatto meglio di tutti, è De Rossi, e Votini, che si teneva sicuro della prima medaglia. Io gli vorrei bene a Votini, benché sia un po' vanesio e si rilisci troppo. Ma mi fa un dispetto, ora che gli son vicino di banco, veder com'è invidioso di De Rossi, e vorrebbe gareggiare con lui. Studia. Ma non ce ne può in nessuna maniera, che l'altro lo rivende 10 volte in tutte le materie. E Votini si morde le dita. Anche Carlo Nobis lo invidia, ma ha tanta superbia in corpo che, appunto per superbia, non si fa scorgere. Votini invece si tradisce, si lamenta dei punti a casa sua e dice che il maestro fa delle ingiustizie. E quando De Rossi risponde alle interrogazioni così pronto e bene, come fa sempre, egli si rannuvola, china la testa, finge di non sentire o si sforza di ridere, ma ride verde. E siccome tutti lo sanno, così quando il maestro loda De Rossi, tutti si voltano a guardar Votini, che mastica veleno, e il muratorino gli fa il muso di lepre. Stamani, per esempio, l'ha fatta bigia. Il maestro entra nella scuola e annuncia il risultato dell'esame. De Rossi, 10 decimi e la prima medaglia. Votini fece un grande starnuto. Il maestro lo guardò. Ci voleva poco a capire. Votini, gli disse, non vi lasciate entrare in corpo il serpe dell'invidia. È un serpe che rode il cervello e corrompe il cuore. Tutti lo guardarono, fuorché De Rossi. Votini volle rispondere, non poté. Restò come impietrito, col viso bianco. Poi, mentre il maestro faceva lezione, si mise a scrivere a grossi caratteri sopra un foglietto. Io non sono invidioso di quelli che guadagnano la prima medaglia con le protezioni e le ingiustizie. Era un biglietto che voleva mandare a De Rossi, ma intanto vedevo che i vicini di De Rossi macchinavano tra loro, parlandosi nell'orecchio, e uno ritagliava col temperino una gran medaglia di carta, su cui avevano disegnato un serpe nero. E Votini pure se ne accorse. Il maestro uscì per pochi minuti. Subito i vicini di De Rossi s'alzarono per uscire dal banco e venire a presentar solennemente la medaglia di carta a Votini. Tutta la classe si preparava a una scenata. Votini tremava già tutto. De Rossi gridò, «Datela a me!» «Sì, meglio», quegli risposero. «Sei tu che gliela devi portare!» De Rossi pigliò la medaglia e la fece in tanti pezzetti. In quel punto il maestro rientrò e riprese la lezione. Io tenni d'occhio Votini. Era diventato rosso di bragia. Prese il foglietto adagio, come se facesse per distrazione. Lo appallottolò di nascosto, se lo mise in bocca. Lo masticò per un poco e poi lo sputò sotto il banco. Nell'uscir dalla scuola, passando davanti a De Rossi, Votini, che era un po' confuso, lasciò cascar la carta asciugante. De Rossi, gentile, la raccattò e gliela mise nello zaino e l'aiutò ad agganciare la cinghia. Votini non osò alzare la fronte. Sabato 28. La madre di Franti. Ma Votini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del direttore, il maestro domandò a De Rossi se sapeva a mente quelle 2 strofette del libro di lettura. dovunque il guardo io giro, immenso Iddio, ti vedo. Derossi rispose di no, e Votini subito, io le so, con un sorriso come per fare una picca a Derossi. Ma fu piccato lui, invece, che non poté recitare la poesia, perché entrò tutta un tratto nella scuola la madre di Franti, affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti il figliuolo che era stato sospeso dalla scuola per 8 giorni. Che triste scenata ci toccò di vedere. La povera donna si gettò quasi in ginocchio davanti al direttore, giungendo le mani e supplicando: «Oh, signor direttore, mi faccia la grazia, riammetta il ragazzo alla scuola. Son 3 giorni che è a casa, l'ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza. Abbia pietà, che non so più come fare, mi raccomando con tutta l'anima mia». Il direttore cercò di condurla fuori, ma essa resistette, sempre pregando e dicendo: «Oh, se sapesse le pene che m'ha dato questo figliuolo, avrebbe compassione. Mi faccia la grazia. Io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor direttore. Ho la morte qui, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire. Perché?» E diede in uno scoppio di pianto. «È il mio figliuolo. Gli voglio bene. Morirei disperata. Me lo riprenda ancora una volta, signor direttore, perché non segua una disgrazia in famiglia. Lo faccia per pietà d'una povera donna». E si coperse il viso con le mani, singhiozzando. Franti teneva il viso basso, impassibile. Il direttore lo guardò, stette un po' pensando, poi disse: «Franti, va al tuo posto». Allora la donna levò le mani dal viso, tutta racconsolata, e cominciò a dir grazie. Grazie senza lasciar parlare il direttore, e s'avviò verso l'uscio, asciugandosi gli occhi e dicendo affollatamente: «Figliuol mio, mi raccomando, abbiano pazienza tutti. Grazie, signor direttore, che ha fatto un'opera di carità. Buono, sai, figliuolo. Buongiorno, ragazzi. Grazie, arrivederlo, signor maestro. E scusino tanto una povera mamma». E data ancora di sull'uscio un'occhiata supplichevole a suo figlio, se ne andò raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentimmo ancora tossire giù per le scale. Il direttore guardò fisso Franti, in mezzo al silenzio della classe, e gli disse con un accento da far tremare: «Franti, tu uccidi tua madre!» Tutti si voltarono a guardar Franti, e quell'infame sorrise. Domenica 29. Lettera. Speranza. Bello, Enrico, lo slancio con cui ti sei gettato sul cuore di tua madre tornando dalla scuola di religione. Sì, t'ha detto delle cose grandi e consolanti il maestro. Dio ci ha gettati l'uno nelle braccia dell'altro. Non ci separerà per sempre. Quando io morirò, quando tuo padre morirà, non ce le diremo quelle tremende e disperate parole. Mamma, babbo, Enrico, non ti vedrò mai più. Noi ci rivedremo in un'altra vita, dove chi ha molto sofferto in questa sarà compensato, dove chi ha molto amato sulla terra ritroverà le anime che ha amato, in un mondo senza colpe, senza pianto e senza morte. Ma dobbiamo rendercene degni, tutti, di quell'altra vita. Senti, figliuolo, ogni tua azione buona, ogni tuo moto d'affetto per coloro che ti amano, ogni tuo atto cortese per i tuoi compagni, ogni tuo pensiero gentile è come uno slancio in alto verso quel mondo, e anche ti solleva verso quel mondo ogni disgrazia, ogni dolore, perché ogni dolore è l'espiazione d'una colpa. Ogni lacrima cancella una macchia. Proponiti ogni giorno di essere più buono e più amoroso che il giorno innanzi. Di ogni mattina: oggi voglio fare qualche cosa di cui la coscienza mi lodi e mio padre sia contento. qualche cosa che mi faccia voler bene da questo o da quel compagno, dal maestro, da mio fratello o da altri, e domanda a Dio che ti dia la forza di mettere in atto il tuo proposito. Signore, io voglio essere buono, nobile, coraggioso, gentile, sincero. Aiutatemi. Fate che ogni sera, quando mia madre mi dà l'ultimo saluto, io possa dirle: tu baci questa sera un fanciullo più onesto e più degno di quello che baciasti ieri. Abbi sempre nel tuo pensiero quell'altro Enrico sovrumano e felice che tu potrai essere dopo questa vita. E prega. Tu non puoi immaginare che dolcezza provi, quanto si senta migliore una madre quando vede il suo fanciullo con le mani giunte. Quando io vedo te che preghi, mi pare impossibile che non ci sia nessuno che ti guardi e ti ascolti. Io credo allora più fermamente che c'è una bontà suprema e una pietà infinita. Io t'amo di più, lavoro con più ardore, soffro con più forza, perdono con tutta l'anima e penso alla morte serenamente. Oh Dio grande e buono, risentir dopo la morte la voce di mia madre, ritrovare i miei bambini, rivedere il mio Enrico benedetto e immortale, e stringerlo in un abbraccio che non si scioglierà mai più, mai più, mai più in eterno. Oh, prega, preghiamo, amiamoci, siamo buoni, portiamo questa celeste speranza nell'animo, adorato fanciullo mio. Firmato, tua madre. Fine del mese di gennaio.